Renza Snaidero da Maiano. Il cucuc. Vos di vert e di rosade, di muscli e pestelax. Cucuc da fons dall'anime dal bosc. Cimiade di voli celest al gnossium. Dammi la man, anin io e te a Ciri la primavere. Dino Virgili da Cereseto. Di Kestis Bandis. Oh, se un Dio tornas di Kestis Bandis, Kestil e quei e dulinsom lismons, o cognos duci trois des mesculinis, il spitz di mai arretta al mio pais, ah, siums, lis rois, il dolce avril, io frutto. Tal paese di mio pari e di me mari, e io ne chiase viere sotto il ciuc, cui ci pressin cuc tal broili, il ronc e i orsin rose, e i poi di lung da laghe. Ale il curtil cul morar grant, il cil, ale, quanche sia voe di vai e di murì, anche mo il grin di me mari, e può fermarsi ascoltare l'usignul e laghe, ien fri poi da pid la cleve, o muri di delizie un'altra volte, co tornarai di frut dal mio paese, pilgrim sunt un chiar o a pi d'avril. Maria Forte da Buia. Il rusignul, besol col so chiant clar il rusignul in tegnot colme, fin quant che l'albe e beef tal cur des margaritis. Ennio Totis da Martignacco. Anime di pais, ti videi e le toman come chiarine la muse, un sospir mi ven dal cur. Anime di pais, tu mi fevelis tal sium, tal cidin de gnot o sind le tovos di fantazute che planche mur tal scur. Rosute pallide, ombre vive tal riul, io lontano sospiri e tu tal mio pais chianta. Ma Ennio Totis, buon ultimo, non scrive soltanto bene. Contadino vero, egli ruba le note flautate ai rosignoli che sui colli di rosazzo si abbandonano alle loro inebrianti malie canore. Convitto poi nel breve chiostro, silenzioso di abitatori, se si eccettuano le rondini roteanti intorno al campanile da cui scendono i rintocchi argentini delle ore. Convitto a base di polenta fumante, di salame casalingo, di pane appena sfornato, di formaggio montasio, di uova sode, di mele, delle ultime arance della stagione. Al bando l'acqua, anche perché il pozzo al centro del riquadro erboso è pesantemente incatenato. Impossibile affondarvi il secchio che pende arrugginito dalla carrucola dell'arco. Al suo posto dell'ottimo vino, gentilmente offerto ai poeti, anzi il miglior d'Italia, come annota a proposito di Rosazzo Marin Sanudo negli itinerari di terraferma. È il vino che aizzava la matta bestialità dei lanzi nella canzone cinquecentesca Ritornati o discortese. Voi venivi alla caza per tracanare lo buon vino e il primo salto fo Rosazza. Una canzone che su un ritmo guerriero esalta indirettamente il tocai che sa di foglia di pesco, il verduzzo che sa di violetta silvestre ed è dorato come il cielo al tramonto sopra i colli di Butrio e di Manzano, punteggiati di cipressi come i colli toscani, ed esalta il pignolo, rubino medicamentoso che alleviò l'infermità di Francesco di Carrara, signore di Padova, prigione dei veneziani. Lontane ormai le cupe parentesi del Monasterium Rosarum, che ebbe il nome dalle rose selvatiche Rosacis, che arrossano i muri anneriti del superstite fortilizio medievale. Vicino agli occhi e alla mente, solamente il saluto che ha accolto gli scrittori di risultive e che essi rimandano ai fratelli lontani, messaggio d'amore e di pace. La poesia non muore. La poesia non muore. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Messaggio dei poeti ai lontani. 23esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Kino Ermacora. Musiche di Robert Schumann, Ethel Nogara Fellow e musiche popolari.